Giulio. Attento briciola, su che andiamo, su. Ah, Brigida. Su che andiamo. Va bene lui. Non va più qui. Ieri notte sì. Cosa? Ieri notte sta piovendo. Anche adesso ogni tanto gocciola bu. Va. È morta se non la usa, sta puttana. Chi? Se la uccia. Ah, no, non sapevo. Caspita. Ah, poverina. Alle 11 è morta. Domani ci sarà il funerale, alle 3 e mezza. No, mi dispiace, porca miseria. Dove li fanno? Qua? Sì, poi sarà la Teolce, della Teolce. Ah, vabbè che sì, è vero, poi lo può fare anche qua. Caspita, bobo. Vabbè, il bello si va via. Certo, poi era allettata, si potevano promuovere, era sempre bucata. È grande, è vero, grande era, caspita. Chi sei se va delle manuali, se dai. Picciola! Oh, fratellino! Dai, caro! E beh, Natale, sta a posto. Sì, tutto a posto, da mettere a posto. Sì, dai, è importante che c'è la salute, dai. Importante è quello. Sì, la salute le gambe brutte. Cazzo, via. Io mi sono alzata adesso, da stamattina sono arrivata alle 8 a casa da lavoro. Adesso sto preparando due panini e poi devo riandare alle 18, devo rientrare. Cazzo di alla biglia da buona burdu. Cazzo di aro, tutta la notte devi c'è anch'io. E adesso oggi sono a Fiume Santo. Oggi devo andare a Fiume Santo. Dove c'è la centrale. Ieri ero lì a Porto Torres. Anda bene. E già è vicino lì, sia a Fiume Santo che a... Fiume Santo è più lontano, che a Pociodorra. L'importante è che si mandi a lontano, e visto è anche da voi, oltre che sei stanco, devi fare anche il viaggio per tornartene. Adesso, forse mese prossimo lo mandano a Palau, e quello è. Cazzo, già la pigli buona lì, se poco è lontano. Io già visto tutti i chirurghi, viaggiavo buru io, un bel. Sì, ma lì a Palau sto tirando l'alloggio, sto lì tutto il mese, mica cazzo viaggio. Se tirassi in alloggio è un'altra cosa. No, alloggio, siamo in tre lì, capito? Siamo tre colleghi. Un cappa. Per coprire i turni, là. Cazzo, una volta viaggio, già sto riuscendo del gambo da là, figurati se dovremmo la viaggia da Palau a casa, sai? Sì, infatti, io sul viaggio è lungo. Vabbè, dai, ripetilo che mi preparo il pane, poi vado a fare una doccia, poi che me ne vado alle 5 e mezza ci parto da qua io. Ripetilo. Sto facendo, sono al telefono. Vabbè, ciao Manuela. Buona preparazione, buon tutto e buon trabacco per stanotte, da. Grazie Natalia, dai, ci sentiamo casomai domani. Non so se domani sono di riposo. Tanto mi ha giovato due giovati in una, rimane, dai, sa du. Io lo so, è dura, un mediente non lo usavo, so vuol dire fai sul travaglio. Ci deve provare a farlo. Qualcuno va a provare se ne è fuggito, quando ci abbiamo di passare già ti racconto. Anche se credi che è una passeggiata. Un pizzinotto di nulla era, che ci ammazzano, io ti lo dico, quando ci abbiamo di passare. È dura, ci vuole un bel partenza. E poi devi stare molto veloce a bicchi. E ero grido, non è un travaglio a biglia sotto gamba, no? Cazzo, chi si comincia abituato a fare 12 ore e a Turrassini diventavano i 15, cazzo, e ci dovrà di gambo. Ehi, 12 ancora poco, e a me ne sta fare 14 e 15. infatti, quando diciamo che devi sostituire qualche collega e cose, io glielo so, guia. Un obbediente non lo sa cosa è. Ma se credono che è un gioco per loro, non lo sanno, non sa cosa vuol dire, cosa va incontro. Ehi, e che tutto andiamo pure, salvo imprevisti, no, ma noi? Cos'è Natale? E che tutto andiamo, salvo imprevisti. Ehi, appunto, e che tutto andiamo, quello sì. Infatti va a prepararti, va Emanuele. Andà a prepararti, se no fai danno magari. Ah, mi resto, faccio due panni, faccio la luce, veloce. E poi mi do la ciamba. Sì, ok. Andà bene me, dai, già sono qua io. Riprendete voi. Luca! Luca, brutto maniaco che non sei altro, non rispondi, no? Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Sembe? Bello, dice gli amici tuoi, ha capito, bello bene. Davvero? Ma aspettate, ho detto, riesce ad essere qualcuno a pingio. Nulla, un silenzio totale. Cazzo, questo è acceso, pensa, è acceso da ieri, avevo messo l'altro squelch, è rimasto acceso durante la notte, detto così quando parlano di pomeriggio o metà serata li sento, è un deserto, il deserto di tartari. Cazzo, ogni tanto qualcuno mette la portante, boh. Fa entrare a parlare se vuoi entrare, cosa cavolo mi fai sapere, mi sei e da voi non fa vedi. Nel senso che hanno dato un po' la terra. Io. Ah, cioè, premono, tu dici avanti e non risponde nessuno. E vabbè. Vabbè. Buonasera. Comunque, risultati molto deludenti ieri, molto. Tu eri già andato via. Ho provato a parlare da Bancali, dalla campagna lì. Arrivavo a Sassari, non solo, ma abbiamo visto che due antenne quasi uguali, l'imitazione della tele come una porcata pazzesca. Non dirlo a me, si parla anche. Qua c'era Gianni Seratonino, chiede un controllo X, tipo 9.5 per dire, no? Presunto. Adesso vabbè, lo smitter Gianni ha detto che non è affidabile, però ho messo l'altra antenna, la stessa base, ho svitato dalla base magnetica quell'antenna, quella Midland, quella buona. No, vale, scusa, prima ho provato quella in limitazione, il segnale era tot, no, 9.5 tipo. Metto l'altra, ho detto guarda dovrebbe essere uguale, ho messo la Midland, e dice no, è cambiato tantissimo, è molto più alto il segnale, credo oltre un Santiago, con la Midland. Quindi quella telecom che tu se la vedi esternamente sembra la stessa, anche la bobina dentro sembra la stessa, niente, è diversa la resa, due antenne della stessa lunghezza, e guarda che a parità di lunghezza di antenna un Santiago o più in meno è drammatico, tanto vale mettere l'antenna da un metro a quel punto. E quindi la Midland è buona. Questa della Telecom, chiamata LSOML 145, è una, come direbbe la Fantozzi, è una cagata pazzesca. Figurati. Vabbè, costava, tu dici, ma costava poco, costava la metà, la sola antenna, senza la base, la sola antenna costava la metà dell'antenna Midland. Però rende poco. E uno dice, ma costa meno, ma rende meno, cioè inutile pagare meno e non ti intendi. Cioè mi sentivano lo stesso, però c'era una differenza notevole. E quindi adesso quell'antenna lì non lo userò. userò lo stilo di ricambio se necessario, perché lo spessore è uguale all'altra, però cioè, come fai a progettare un'antenna a fare il clone delle altre antenne che rendono di cacca, però vabbè. Io ero curioso di fare la prova con quella di Gianni, che è simile, c'è la bobina a vista perché è trasparente dove c'è la bobina, no? Sulla stessa base, l'importante è che siano taratte, perché e quelle erano taratte, ho controllato le stazionali, ieri era 1 sta a 1, non è a dire ma una magari non è una tarata, no, le ho taratte per la stessa base, quella da 16 cm della Sirio. E non ci sono scusanti, quindi i watt erano quelli, la parata era quello. Cappa, sono contento. Io ho sempre quella PLC800 sulla base magnetica, quella è una belva. Io. Questo discorso, Natalino, lo puoi fare anche sulle copie delle X30, perché c'è la Diamond X30, X50, poi c'è le copie con mille nomi, tipo Oxin, Proxel, tanti nomi cinesi, però alla fine l'originale è meglio. L'originale è meglio. C'è poco da fare. Va bene. Comunque, arrivando, quindi se io mettessi anche la Venom mezz'onda sul tetto di quella campagna, arriverebbe di lusso a Sassari, 9 o più di 9, non c'è problema alcuno, io credevo peggio, che io li sentivo bassi allora, i miei segnali erano bassini, era tipo Santiago 7-1, tipo E8 l'altro, non erano forti come segnali, però arrivavano, cioè, capibilissimi, chiari. Ma se metti l'antenna sul tetto è tutta un'altra minestra. Eh sì, perché sarebbe più alta l'antenna. Dal suolo, anche bastano 4 metri miseri di palo, sarebbe più alta di 4 metri. E poi sarebbe una mezz'onda, capito? Non un quarto d'onda veicolare. Ho detto, non sia che se debba mai servire. Ma lì però ho paura poi a tirare i fulmini, e ho detto vabbè, se stai a pensare a quello non c'è, cioè, nemmeno mettere l'antenna TV allora, e sarebbe bello metterla sullo stesso palo TV, cioè cambiando, mettere un palo unico che in punta abbia l'antenna CB e un po' più in basso, come qua sul tetto, un'antenna TV. Perfetto. Infatti, l'ho fatto così proprio. Poi ho scoperto che alcuni apparati che io hanno i subtoni, se tu dovessi fare un coso esclusivo collegamento con la campagna, mettendo i sentori ti senti esclusivamente tu e l'interlocutore, non senti altro, niente altro può aprire lo squelch, capito? Li puoi mettere sia analogici che digitali, però non so se sia chiamata, tipo chiamata selettiva, che in 27 non era ammessa, c'è quello di interloquire solo con una persona, escludendo tutto il resto. Dovrei chiedere a chi ne sa. Ehi, così, e non te lo sblocca lo squelch, se non hai qui tu non ti sblocca lo squelch. È così. Ehi, vediamo se c'è qualcuno all'ascolto, Gianni, Giulio, qualcuno, se c'è qualche sopravvissuto. Poi oggi sera c'è Natale, la giornata era brutta, ho detto qua piove da un momento all'altro, visto il cielo, invece poi non ha piovuto, credo. E infatti, però è nuvoloso, a me mi sarebbe piaciuto se c'era il sole, capito? Me ne sarei andato a prendermi un po' di sole. Comunque Natale ieri, col mirino classico, risultati più che deludenti, non capivi dove cavolo andava il proietto, deludenti, ho detto no, c'è qualcosa che sto sbagliando, non capisco cosa, ma tutto da rifare, tutto, ed avevo anche l'appoggio, io non riesco a capire Natali. Ehi, la stessa storia è che uno abbia la canna rigata o la canna liscia. Quello con la canna rigata risulta più preciso, no? Allora, il discorso che c'è. L'altro va dove cazzo capita la situazione. Cioè, io non riesco a capacitarmi, cioè tu miri al centro, nello stesso punto, uno va sotto, al di sotto addirittura a livello del terreno, uno va al di sopra e colpisce il muro in fondo. Non... Vabbè, tutto da rifare, dai. La prossima volta proverò direttamente con Red Dot. Con Red Dot. Vabbè. Ok, vabbè, non ne parliamo, dai. Lo so, no, non è precisa la situazione lì. Hai un look, diciamo. No, anzi, dovrebbe esserlo, dovrebbe esserlo. Ho sbagliato qualcosa io per inesperienza, non lo so perché. Vabbè, dai, poi sai cos'è. Ho fatto l'errore di metterlo troppo distante. Cioè, a Giumai non vedevi nemmeno il bersaglio, a occhio nudo, anche con gli occhiali. Cioè, vedevi un puntino, il bersaglio era un puntino. Infatti poi andando ai 20 metri o meno, e funzionava come doveva funzionare, però vabbè, poi ne parliamo in altre sedi. Ma per superstiti non ce n'è all'ascolto, se no sarebbero entrati, o è troppo presto. Cata, ieri lo sai che ho collegato a Campobasso, che è difficilissimo, perché c'era propagazione corta e si sentiva l'Italia di brutto. L'Italia, a che ora? Di sera. Ho collegato a questo di Campobasso, addirittura uno è entrato dal nord Italia che voleva un controllo sul 10 normale. Quello di Campobasso l'ho collegato in SSB, ma arrivava forte. Sì, beh, quella è la propagazione che preferisco, quella corta, dai, medio corta, insomma. Ma quando senti... No, perché almeno parli italiano, parli di qualcosa, che ne so, a costo di parlare del tempo, di tutto, ma quando parli in inglese con gente anche che non è nemmeno di madrelingua inglese, più che dare il controllo, 5 robe, lì ti gli dai le condizioni della stazione, però non vai oltre, dai. Infatti, non è che puoi fare un discorso lungo, là, diciamo così. Io me la cavo, non c'è problema, ma uno che non mastica bene l'inglese è un casotto. Ma che vuoi tu? Che vuoi? Maniaco. Stavo chiamando e non rispondevi stasera quando ho smesso di parlare con Manuele. Invece già mi rispondi tu, per quello io non ti rispondo. Quando mi rispondi tu al cellulare, ti rispondo io. Ma quello è il maniaco. Dai, la campanella. Come è questo l'MB, Marco, sul 703? Ha un bel cupo. Dai, magari... Che è fatto? Che ti metto qui sul cupo? La radio è troppo cupo, ha ragione Marco. Natali, visto il messaggio? 3 euro l'una, 2,50 l'una. Cioè, dispendioso come hobby se si rovina così al primo tiro. Penso proprio di sì, aspetta un attimo. Adesso c'è l'effetto stanza perché è amplificatissimo, però è cupo. Sono a zero con questo cavolo di microfono. Raga, tutto così, sì, si è compreso. Vai, comprendo il tuo microfono. Alternato. 3 più 4. Ma c'è anche l'alternata. Comunque la radio è più chiara. Alternata, mi sembra strano. Adesso non c'è più. Guarda, così come tocca il microfono. Sì. È vero. Invece se tocca solo il PTT che è di plastica non lo fa. allora lascio così il a 0,1. E la carrozzia, che se no non si comprende nulla, che su quindi uno è la troppo voce e l'altro è la guppa, questa va bene almeno. Noi stiamo a giocare a modificare le connessioni del 60, perché uno è con l'altro iaesi, e quando lo iaesi il 60, capito? Ha detto proprio l'MB più 4. Raga, l'MB più 4 che va benissimo. Ma non controlla fino a salire con il microfono, che ogni volta i problemi cracca. E come mollo la portante, così. Microfono. L'MB più 4 è questo. Ma questo lo fa perché? Senti, ma. Cosa fa? Flattare. Ma anche quando parli si sente crac. Ma non lo può che bene, non so. E magari non premo bene la portante e fa quel gioco lì. Adesso già l'ho premuta bene. E via, magari. Tappa. Marco, avanti. Marco sta guardando le campanelle. E diventa campanaro questo. Fra un po'. Un campanaccio di vento. Mi hanno mandato un video, suonando le campanelle, e si è tutto in città. E suona Buru che sa campana. Ah no, e suona bel Buru. Pittina. E pure in tanappa. A Colina. Colino. Vuol dire io. Eia. E beh, guardando le campanelle, salve. Eia, già vista le campanelle, che bello, come la pecorella, tu la senti arrivare, mi va, din din din. Suona pure, visto? Letto là quel messaggio, Marco. Questo è particolare. Eia, adesso ho letto. Però io ho visto gente con un'attrezzatura, non dico uguale, ma simile, col cannocchiale, vabbè tu dici col cannocchiale, a 70 metri beccavano in un cerchio di 10 centimetri, capito? Se non è che va storta la situazione, che non va dritta, boh, che ne so. No, secondo me sono storti gli occhi del tiratore, capito? Perché con quegli occhiali non riuscivo neanche a mirare, mi si appannavano, boh, no, non so, guarda. Non mi veniva bene, proprio non mi veniva bene, ero appoggiato al tavolino, però non lo so. Vabbè, le ricontrollerò poi la prossima volta, però grazie a Dio. Proprio male male. Tutti e due gli occhi aperti devi avere, mi per mirare. Triste ricordando il suo matrimonio. E questo è chiuso. No, io no, chiudevo il sinistro. Aperti all'inizio, però poi volevo vedere solo quello che mi interessava. No, ascolta. Bisogna vedere qual è l'occhio che che predomina, se no devi tenere gli occhi aperti tutti e due per mirare giusto. Marco, ehi, allora aspetta che ti rilancio. Allora l'occhio dominante è il destro, e io uso il destro infatti, però miro chiudendo il sinistro. Vai Luca. Sì, ma il problema è il Parkinson, non l'occhio. Anzi, c'avevo anche l'appoggio, il gomito era appoggiato, l'attrezzo era appoggiato. Vabbè, pazienza. Io dovrei vedere la situazione, io con la pistola miro con tutti e due gli occhi aperti e va giusta la situazione, se no se chiudo un occhio non va come dovrebbe andare. Lì, tu una volta che c'hai il mirino messo al centro della tacca di mira, alla stessa altezza, no? Non come certi che lo fanno affondare o lo fanno uscire al di sopra della tacca di mira. Che cacchio ne so, vabbè. Anche nel giorno dell'incontro. Con le mire sue devi tenere gli occhi aperti. Invece se vai col cannocchiale è un'altra cosa. Io ho usato l'M4 con quello olografico. E andavo bene. Messaggio alternativo. Ma per aggiustare la mira devi usare sempre lo stesso libraggio, se no è logico che non ne capisci niente, Marco. Se è troppo pesante è logico che atterra prima. Quindi a forse è stato minorenne, invece fa la parabola prima, amico. Eia, ma io credevo che fosse meno influente, invece influisce un bel. Cioè, se tu usi grani diversi, mischi cose con grani diversi, grani e non grammi, vabbè, noi già lo sappiamo, e cambia tantissimo la cosa, non credevo, vedi, è l'inesperienza, adesso lo so. Ehi, è così, anche per tarare un'ottica, devi usare sempre la stessa cartuccia, perché sennò sbagli. Va bene, la prossima volta mi metterò a piombo. Beh, è così purtroppo, Marco. Luca, fai qualcosa, intervieni. No, stavo leggendo questo articolo che non metto su a Radio Shop su Facebook, hanno spedito un Acon 1010, un applicatore in contrassegno, no? Il pacco poi gli è tornato indietro al negoziante con dentro dei blocchi di cemento avvolti in un accappatoio. Ma come cavolo hanno fatto? Non è possibile una cosa del genere. Se non paghi, il pacco al corriere innanzitutto non te lo dà. Se lo sarà fregato il corriere. Cioè, questo qua dice, prima rispondeva alle chiamate, no, ai messaggi, no, e dicendo appunto all'azienda mandato in contrassegno, l'indirizzo questo, boom e va, no? E dice poi il pacco è ritornato in azienda con dentro questa roba qua, che ha preso l'amplificatore e poi non si capisce questa cosa, è un po' strano. Qualche magia napoletana, come è successo al fratello di mia zia, che è andata a Napoli lì e c'era questa bancarella, stavano vendendo questi radioni, no, belli gatti, Grundig. Ha detto, signore, se lo compro Grundig, da pigliato si era comparato. E arrivi in Sardegna e vedono due borattini dentro. Ma a Palermo è stato spedito questo. Però lì c'è la collaborazione del corriere, perché gli è tornato indietro, si conservano, non so, lì c'è qualcosa. Cioè, tu svuota il pacco, ci mettiamo in così, diciamo che l'ha rifiutato, e che è tornato indietro, capito? E se no mi pare strana la cosa. Fatto il pacco, messo tolto quello che dovevano fare, messo il blocco di cemento e fatto continuare il pacco. Allora il corriere di qua non è a colpa, diciamo, cioè della zona di Palermo. Sì, quello finale, quello verso la destinazione, il Filonfio. Poi bisogna vedere che corriere era. Sapete, c'è questa studiascia di Fulmine Group, questo servizio di posta privata di corrieri di Palermo, un caso strano, praticamente tutti i pacchi di AliExpress spediti con Kainao vengono alienati, se li scrive come consegnati e si tengono i pacchi, scomparsa la roba, scomparsa, oppure non ti arriva nemmeno la, non risulta né consegnato né niente, scomparsi né nulla, probabilmente se li rivendono. E ci sono su TripAdvisor un sacco di recensioni negative su questa cosa qua. C'è gente che non ha i mezzi, che non ha prima di tutto il modo di fare, di avere rapporti col pubblico, perché poi se chiami in sede dice sempre risposte seccate, c'è degli zotticoni, gente che non può avere rapporti col pubblico, non hanno i mezzi, non hanno i corrieri per supplire, dice che manco riuscivano a recapitare le raccomandate e volevano vincere un appalto contro le poste, no, cioè volevano l'appalto loro, ovviamente l'hanno perso. perché non hanno i mezzi, l'organizzazione e nemmeno la fibra morale di portare pacchi. Capite? Tutti i pacchi, io perché non ho più ordinato da AliExpress? Perché la roba non arriva, o meglio, AliExpress ti dice spediamo con AliExpress standard, no. Poi invece spediscono con Kainao, ti danno quei codici strani, perché hanno fatto un accordo con questo Fulmini Group, e la roba non arriva. Finché una cosa da 20 euro, capisco, c'è gente che ha speso centinaia di euro e la roba scompare, scompare. Non ne trovi manco traccia. Figurati, vai fidati tu. Ma guarda, io con AliExpress, non dico tutti i giorni, ma quasi, e mi è sempre arrivato tutto. E quello che non mi arrivava mi rimborsavano, perché loro lo vedono comunque. Però questo qua dice che il Corriere Birrettino, no? Dice che prima rispondeva sempre ai messaggi, alle chiamate, appunto, l'acquirente. Adesso formalmente dice, non risponde più a niente. Sicché c'è anche lo zampino del cliente. E evidentemente è una di quelle carte fasulle che risultano inesistenti. In contrassegno. Ah, in contrassegno la marca. Eia, in contrassegno, è stato richiesto in contrassegno. Come fa il corriere a darti un pacco? Cioè, e quella è la cosa strana, dice che non hanno i soldi, li prende il corriere, se non ti rilascia il pacco. E stranamente il cliente non si è più fatto sentire, non risponde al telefono e niente. Capito la cosa strana qua? Come fa il cliente a prendere la merce? Cioè, o era d'accordo col corriere, oppure per forza, perché non è possibile. No, tu risponderesti alle chiamate del negoziante, no? Proprio per giustificare e dire no, io non ho fatto niente, non ho preso niente, eccetera, eccetera. E invece già che non rispondi, scusa. Eh sì. Queste stranezze napoletane, o siciliane. Adesso io mi dicono che sono prevenuto con il sud, però vedi questa Fulmini Group di Palermo, no? Un'impresa di Palermo, tanta pubblicità, tanto coso e non, gente che non è capace, non è capace. E non solo, ma che si frega i pacchi, quei pacchi non li trovi più. A malapena riesci a contattarli, non rispondono, rispondono scocciati. Zotticoni, queste sono le imprese del sud, capito? Altruni. Ma mica è una cosa molto strana comunque, cioè uno prenota in contrassegno, compra in contrassegno per non avere fregature, ma poi i negozianti che ha fregature e disabili. Cioè il pacco te lo mandano, non è che si fa una bella pubblicità non mandandoti il pacco, capito? E quella è la cosa strana. Il pacco è stato aperto, preso all'interno, il richiuso e poi è ritornato indietro all'azienda. E come che non ho trovato l'acquirente? Se l'ha fregato il corriere, dai. Ascolta, ma il destinatario era di Palermo o il mittente? No, il destinatario era di Palermo. Magari il corriere finale era Fulmine Group, me. Trovati ci sono, me. Acquirente Futtibicciu e corriere Futtibicciu. Il corriere ce l'ha per tutto. Perché il cliente senza i soldi, se era in contrassegno, non lo poteva ritirare assolutamente. Quindi più che il corriere non ce l'ha fottuto. No, Natalì. No, Natalì. Se l'acquirente, il cliente non risponde più al telefono, vuol dire che era d'accordo col corriere. Magari conosceva, dice guarda se capita a te facciamo così, risultiamo che lo facciamo figurare che l'ho rifiutato, ci mettiamo i mattoni, tu indichi che è stato rifiutato, quindi rispedito al mittente, però c'entra anche l'acquirente, perché scusa, se no avrebbe risposto, avrebbe detto perché il mio pacco non è arrivato, dov'è il mio pacco, sto aspettando il pacco, invece no, il fatto che ci sia glissato è assai lunga la cosa, vai Luca. Sì, secondo me era d'accordo col corriere, per forza, non è possibile. Sì, perché il corriere ha messo, magari che non l'ha trovato all'acquirente, capito, e ci hanno messo i mattoni dentro per rispedirlo indietro. L'hanno messo, ma ne bigliato, vicino dove viene bigliato, hanno buttato i mattoni dentro. grande. Ehi, d'accordo, mio, era d'accordo, sarà fregato il corriere oppure era d'accordo con l'acquirente, dato che non risponde. Comunque sai che su Amazon c'è un sacco di, tutti i ragazzetti comprano su Amazon, aprono il pacco, dicono che era vuoto e rispediscono, oppure dicono che era rotto l'articolo, ci mettono una fesseria dentro per non farlo sembrare vuoto, dice tanto Amazon non controlla nemmeno i resi, e molti ci stavano giocando, ordinavano, si fregavano la roba, rispedivano indietro col pacco vuoto con qualche cosa che faccia peso e si tenevano la merce. Poi però lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, alla fine Amazon li puzza, va a controllare e vede che li hai truffati, capito? E poi partono le denunce, ma ormai vedo che è cosa comune, lo fanno in molti, non gliene frega niente a nessuno. Boh, vabbè. Marco, ehi. C'è stato uno che ha fatto una cosa del genere per 300.000 euro di roba, comprando, poi che cosa faceva? Quando arrivava il pacco lo pesava, ok, toglieva l'articolo e ripeteva il peso uguale, identico a quello che c'era, uguale, perché poi arriva l'acqua, la bilancia, eccetera, no? Rimetteva il peso e lo rimandava indietro, fino a 300.000 euro di roba di pacco. Ma sarà stato minimo denunciato per truffa. Ma intanto 300.000 euro di roba, dai. Ma se poi riescono a risalire a dove ce l'ha o insomma se trovano le prove gliele fanno mangiare, gliele fanno non mangiare, da dietro li fanno uscire, capito? Vabbè, io vado a farmi un caffè, un attimino, cosa volevo dire a Talibu? Mi sa che me lo faccio anch'io un caffè. Allora mi sembra giusto, alle 7:10, trascaldare la macchinetta e tutto, un caffettino ovviamente decaffeinato ci sta. Ah, cosa volevo dire Nathalie, che per esempio Gianni è esagerato quando ha paura a ordinare qualsiasi cosa. Scusa, se tu ordini dai soliti venditori notti, Media Globe, Filecu Elettronica, EL Elettronica, certo che se ordini dal privato che si chiama, che ne so, Ciro Esposito, e lì, non lo so, la mano sul fuoco non ce la metterei. Ti dirò di più, noi ci siamo fidati anche di questo venditore spagnolo, che comunque non era un privato che vendeva un singolo apparato che magari era suo. Questo aveva una movimentazione di marcia notevole. Eppure, anziché mandarti il 3009 recente, come io ero convinto che fosse il 3009 recente con i MOSFET, ti ha mandato il 3009 che ha almeno 15 anni, perché guarda, già nel 2008 credo che fossero già MOSFET i primi 3009, quelli con la IPT 3615C. Quindi quelli erano residuati nel magazzino, però lui lo doveva indicare, doveva essere espresso che era una versione vecchia, magari sì, di fabbrica mai utilizzata, che poi è risultato anche toccato dentro, però lo doveva indicare che era un modello anche un po' antiquato, capito Nathalie? Era antiquato, sì, se mi ha detto la data pure l'egregio lì, quel mio vicino, mi ha detto la data in cui è stato fatto quell'apparecchio. Cazzo, li conosce come le sue tasche. Se mi ha detto che c'è quel diodo che non è il suo, che c'è la scheda madre storta, e infatti è vero, me l'ha fatto notare, è fuori dall'incasso, suo originale, perché ci sono gli incassi che, che deve entrare lì la scheda, eppure è fuori. Cazzo, c'era la presa dove va attaccata la presa del filo della colonnina risaldata in pochi barauri, mi ha dovuto fare due punti pure perché sono saltate due piste. Ma ce l'ha lui? Certo che ce l'ha lui, se vuoi ti faccio fare la fotografia e così te ne accorgi com'è la situazione. Allora, per mia curiosità personale, fatti dire, tanto è stampato in chiaro sulla scheda, il tipo, la versione della scheda è PT 3006 e poi c'è un numero, potrebbe essere la 14, capito? Una cosa del genere, fatti dire la versione della scheda, è stampato in grande tanto. A dopo, vado a fare il caffè. Ciao Luca, a dopo. Ciao Marco, ciao. ma crema cosa di tutti i figli di un negoziante. Allora io cosa devo dire quando gli ho mandato tutta la mia roba? Lui poteva dire qua non è arrivato niente, ciao, saluti e baci. Invece come è arrivato, a parte che ho visto consegnato il giorno stesso, mi ha detto domani ti parte il 1002, cioè ma di cosa parliamo? Se non ci fidiamo di negozianti, io mi fido del negoziante, anche a parte facendo la permuta, ma anche mandandogli i soldi. Di certo non manderei 800.000 euro a un privato perché che mette una radio in vendita su Subito, su Facebook eccetera, o 700 euro di su chi è per una radio, ma assolutamente mai. Eppure a me mi hanno pure 250 euro da ragazza, buru, l'ho dovuta far distruggere quella carta. Adesso per esempio se le poste non mi mandano un certo codice non pagano, hai capito? È più sicura quella che ho adesso ed è una PostePay Evolution. Ehi, se me lo fai il concetto, cortesia. Hai capito cos'è Luca? Siamo per mangiare. Cazzo, Gianni è stato truffato, Rumatessi, ha comprato un apparecchio e le è arrivato un apparecchio tutto quanto grebato. A me mi hanno truffato, perché con quel 3009 mi hanno truffato, perché io mi faccio fare la fotografia adesso da Adriano e te la mando. E te ne accorgi, te la guardi bene e mi dia vero se è stato toccato oppure no. Me l'ha fatto vedere lui che è stato toccato, Luca. Cazzo, non è un apparecchio nuovo di fabbrica quello che io ho comprato per nuovo. Dimmi, adesso stai uscendo male, Luca, torna. Guarda, Luca, si è toccato qualcosa, guarda. Sì, sempre bu. Ancora? Stai uscendo? Sì, uscendo, stai uscendo, ma stai uscendo tutto rimbombante. Adesso è uscita la portante, solo e tu no. Niente. Da. Adesso il fischio. Adesso uscendo. Adesso sì. Stavo dicendo, ma dal rivenditore l'hai comprato? È un negozio nuovo, la Giubiliardo EU. A chi mi si via? Omologato. Hai capito? L'omologato, il 3009 omologato io ho comprato, nuovo, dalla fabbrica. Ma sì, tu cazzo da nessuno. Cazzo mi è successo chi su quasi e se ne siamo abbizzati paghisso, che l'ha già messo e mi usciva questo innesco a me, e radio nulla. E ce ne siamo accorti per quello. Perché io l'ho fatto vedere al mio impresario, che quello è un tecnico, e mi ha fatto vedere tutte le situazioni che c'era. Quello non era un apparecchio nuovo. Gentilonte, o Giulia. No, vabbè, dalla carta anche a me, ma con la PostePay l'altra, quella gialla, adesso c'ho l'evoluzione. Non so come, sono riuscito a entrare sul conto e hanno fatto tutto tramite ricariche telefoniche, capito? Perché contante non potevano prendere. Però hanno fatto delle ricariche telefoniche per tutto l'importo. Non lo so cosa ne fatto, a me mi hanno bigliato 250 euro. Il 3009 l'ho pagato 200 euro e mi hanno fregato 350 euro. A Chiavassi non riesce a consarlo il apparecchio, perché non è detto che riusciamo a aggiustarlo. Ma hanno fottuto i soldi di quell'apparecchio, io l'avevo comprato per nuovo, come ho comprato nuovo questo qui, per non essere toccato da nessuno. Ma cosa c'entra però, Natale, la rimanenza dei soldi? Questi 150 euro è successo altri che se li hanno presi. Eia, ti sto dicendo, mi hanno truffato 150 euro dalla casa, me ne hanno burati. E più mi è successo questo del 3009, che l'apparecchio non era come doveva essere. Ti sto dicendo, la scheda madre dell'apparecchio fuori dagli incassi, perché io faccio fare la fotografia da Adriano, che c'era lui, l'apparecchio. e te la mando pure a te, e così ti rendi conto a vedere se non è come ti dico io. Sì, io ho messo un po' tanto, sì. Sto riuscito a trovare, ho fatto la password, non so. Ma in un attimo ne va, capito? Purtroppo. Succedono queste cose. Oh, un'altra. Certo che sempre pazzo, 250, caspita, una bella bacca che prendo. Sì, cazzo, a Gianni non l'ha negutito con Saturnecco, a Edu e a Cosu, lui in via Nebigliadu, Edu e Cosu era di Antonio, i due Saturnecco, te la ricordi la storia? Hanno truffato anche a Gianni. Attento. Infatti da internet bisogna stare attenti, tu sei stato fortunato con quel rivenditore che è una persona onesta, però ci sono quelli che sono disonesti e ti fanno questi lavori qua. Marco stava dicendo quello, infatti. Avanti Marco. Adesso io vorrei spezzare una lancia a favore del venditore, però, perché metti che lui l'abbia venduto magari vicino, sei in Spagna stesso, no? Questo l'ha preso il compratore, l'ha alterato, no? Non gli è piaciuto, l'ha manomesso, l'ha restituito magari in pochissimi giorni, e il venditore l'ha preso, l'ha visto magari fuori e ha immacolato. Cioè il venditore potrebbe averlo venduto, no? Il cliente ha fatto il reso dopo averlo manomesso, vedendolo esternamente immacolato, l'ha rimesso in vendita, come fa Amazon, anche Amazon ce lo fa con i resi, li rimette in vendita e non controlla dentro cosa c'è, non potrebbe aprire ogni singolo apparato, ogni singolo elettrodomestico. E l'ha venduto magari in buona fede, ma è stato toccato da un altro. E questa è come la storia del famoso MBV 5 di Fusaro, quello che aveva un po' di bolle sulla serigrafia, no? E praticamente c'aveva tutto, hanno scoperto che era stato venduto, restituito, c'aveva le saldature dello spinotto tutte fatte a cacchio di cane, cioè è stato restituito due o tre volte quel microfono, cioè se io compro una cosa nuova però deve essere nuova, però mentre lì vabbè è un po' diverso. Quello volevo dire, il venditore, se tu fai un reso, tu puoi averlo ricevuto, aperto, ma non messo e restituito subito, e il venditore non se ne accorgerebbe, anche perché funzionava il tuo. Cioè il tuo finché non hai fatto quel cambio microfono funzionava bene, poi è stata una fatalità, come cambiato il microfono non usciva più, innescava, boh, capito Natalia? No, c'è sempre stato questo MB più 4, io il microfono suo non lo stavo usando perché c'era quel pezzo di ferro, te lo ricordi? C'è sempre stato questo, l'MB più 4 attaccato al 3009. Perché quello là era pesantissimo, il microfono, ha tenuto in mano una brida, non lo so qui, capito? Anche io stavo pensando quello, mio Marco, non te l'ho detto, guardassi che il venditore non ne sappia niente, perché io ti faccio vedere il coperchio, c'è ancora il nylon attaccato, di canturidrata VV, chissà parecchio, proprio a chi era l'omologato, ha compreso? Magari è stato manomesso da qualche altro che gliel'ha restituito. Lui ha visto che era immacolato, perché cazzo, è nuovo l'apparecchio, fuori era nuovo, io mica l'avevo aperto. Cazzo, addirittura i guasti che c'erano, me li ha fatti notare, Adriano me li ha fatti notare, io manco accorto me ne ero che c'era la scheda male storta. Sì, vabbè, io con cambio microfono intendevo che tu l'avevi tolto da lì l'MB più 4, usato su quella e poi riattaccato. Come l'hai riattaccato? Boh, morto l'apparato. Vabbè, che strano. Comunque sì, ci ho pensato anch'io che fosse ignaro anche il venditore stesso. Purtroppo anche Amazon gli fanno quei giochetti. E comunque anch'io, Natalia, quando io ricevo un apparato nuovo, proprio per fare eventualmente un cambio immediato se dovesse avere problemi appena arrivato, io metto i guanti, nemmeno il lattice lascia quel borotalco sopra, metto i guanti nitrile, lo monto, lo poggio bene, non gli faccio graffi, connetto l'alimentazione, in modo da restituirlo immacolato, anche se magari non funziona, restituirlo immacolato come l'ho ricevuto, perché se no il venditore se vede appena appena di zozzerie, basta un micro graffio, cosa dice? No, ma questo è telegrafiato, non te lo posso cambiare, capito? Sì, lo so. No, ma io magari mi sono fidato, manco aperto l'avevo, l'apparecchio, l'ho messo lì, cazzo di attaccatore, l'MB+4, con la prolunga, io la prolunga gliel'ho fatta, perché c'ha il filo troppo corto l'MB+4, siccome l'apparecchio era su e non ci arrivava il microfono, capito? L'ha giovato il suo spezzone e l'ho attaccato con lo spezzone, addirittura. Dimmi tu, che cazzo è... il 3009, cazzo, era in quelle condizioni. Senso, se l'avevi già avuto, gliel'avevi rispetto indietro, l'avevi detto, vai così di là a capo, d'ora mi vedi là. Il problema è che rispedire in Spagna ti costa molto. O tu dici, vabbè, pazienza, però è un casino. Invece quelli che ho io erano marcati Proxel, marcati entrambi Proxel, perché io li avevo presi quando la Proxel Italia li importava, cioè Piernes era l'importatore per l'Europa e Proxel era l'importatore per l'Italia e li prendeva la Piernes. Così in modo da avere l'assistenza italiana, cioè se succedeva qualche guasto io lo mandavo alla Proxel direttamente, poi che lo cambiassero, che lo riparassero, quelli sono cavoli loro. Infatti vi avevo detto, se lo dovete comprare prendetelo finché la Proxel ne ha. Vabbè, quello è un caso. Comunque poteva capitare anche con un venditore italiano, Natalì. Per esempio questo Radio Smitter italiano che tuttora è il 3009 è un po' chiacchierato, cioè magari apparecchi usati rimessi a nuovo oppure restituiti, come che dicono gli americani quel termine, refurbished, rimessi a nuovo e li vende per nuovi, cioè è un po' chiacchierato questo venditore Radio Smitter. Non è ben considerato, capito? Sì, infatti, cosa vuoi ti dica? Sta di fatto che mi hanno truffato grasso, ci sono cascato con tutte le scarpe. Via. E poi cos'altro? E poi mi ricordo, vabbè, Gianni era diffidente, l'abbiamo già detto, no? Per gli acquisti dopo quell'imbroglio che gli è capitato. Però mi ricordo, Gianni pretendeva, facendo acquisti nuovi, di aprire il pacco davanti al corriere, vedere se era tutto a posto, se c'era la parata, e poi firmare. E gli avevamo detto, Gianni, non funziona così, il corriere non te lo fa aprire, anche se davanti a lui, per poi firmare se va tutto bene. Cioè lì arriva il pacco, o lo accetti o non lo accetti, capito? No, gli fai scrivere salvo controllo, capito? Salvo controllo nella bolla gli fai scrivere, gli fa scrivere così, perché a noi ce lo facevano, salvo verifica di controllo devi far scrivere nella bolla del coso, del corriere. E farò così, non ho senso più pacchi senza che mi scrivi in salvo verifica di controllo. Siamo suonati. Perché io quando facevo il corriere me lo guardiano i duti a me, a farmi scrivi così. Perché se la roba era chiusa, cazzo, tu non lo sapevi se era buona. Dipende da come...